nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Cominciamo questa domenica di Radio 24 parlando, lo sapete, di donne, lavoro e di tutto quello che significa anche affrontare le varie fasi professionali, le varie fasi di una vita di lavoro. Questa domenica in particolare vorremmo capire in che stato d'animo ci si prepara alla pensione e se ci si va con gioia, con la voglia di non si vede l'ora di arrivare, o se invece lo si vive come un momento di inquietudine. E poi che faccio? Intanto c'è da dire che proprio in queste settimane si discute, no, della decisione, cioè del fatto che dal 1 gennaio 2018 le pensioni di vecchiaia saranno uniformi tra uomini e donne. Andremo tutti a 66 anni e 7 mesi e dal 1 gennaio 2019 l'aspettativa di vita le farà salire a 67 anni. Ora, questo ad alcuni piace moltissimo, perché magari hanno fatto un lavoro faticoso, stressante, psicologicamente usurante per tutta la vita e non vedono l'ora di ritagliarsi finalmente la vita che sognavano, più tranquilla, più rilassata. Mentre per altri è come aprire davanti a sé un lungo tunnel sconosciuto e quindi fonte di inquietudine. Bene, io sono curiosa di capire se chi su questo tema si è di questo tema si è occupata per la sua esperienza prima di docente universitaria, di studiosa e poi di ministra, ecco, mi piacerebbe proprio capire che cosa ne pensa la nostra Sunday Girl di questa domenica. Bentornata, buona domenica alla professoressa Elsa Fornero, economista, accademica e ministro nel governo Monti, ministro del welfare. Dunque, buongiorno professoressa, io ovviamente le chiedo per esordio di questa nostra chiacchierata, come vive, come vede questi commenti in molti casi preoccupati soprattutto per le donne che andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi nel 2018 e poi nel 2019 per uomini e per donne si andrà in pensione a 67 anni. La riforma Fornero diventa realtà. Buongiorno a tutti intanto, e per prima cosa voglio dire che la riforma è in vigore dal 2012 e questi sono effetti, come dire, previsti, sì, dalla riforma, la quale prevedeva una transizione vera. Si può dire che questa transizione sia troppo breve, ma comunque c'era una transizione per certe misure. Una di queste misure per le quali c'è stata la transizione è la egualizzazione dell'età di pensionamento tra uomini e donne. Io ricordo soltanto una cosa: in primo luogo che noi come paese eravamo stati fortemente, come dire, censurati dalla Corte Europea di Giustizia, sanzionati per avere una diversa età di pensionamento nell'ambito del pubblico impiego. Lì il governo precedente era intervenuto e aveva già stabilito l'egualizzazione, quindi nel pubblico impiego questa è realtà. Nel settore privato, forse il pubblico non lo ricorda, ma la famosa lettera della Banca Centrale Europea che arrivò nel pieno della crisi finanziaria nell'agosto 2011 richiedeva espressamente in uno dei punti eguaglianza delle età di pensionamento di uomini e donne. Ora, uno può dire che l'età 67 è troppo alta e questo può essere discusso. sesso, ma quello che mi sembra di poter dire è che noi donne non possiamo volere la parità e poi accettare sempre che ci sia questa logica paternalistica in base alla quale si dice: vabbè, io non ti tratto come tratto gli uomini nel mercato del lavoro, ma poi ti do il contentino e ti faccio andare in pensione prima. Lei, professoressa, lavora con grande passione e intensità, viaggia, viene invitata nelle università d'Europa. Quando pensa ai suoi anni futuri di lavoro, fino a quando si vede impegnata? Con questi ritmi, con i ritmi che... Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace molto, che è un lavoro anche con i giovani, perché quando io insegno a ragazzi che hanno 20, 22, 23 anni, e questo mi fa piacere, è anche una sfida, perché devi essere brava, reattiva e non puoi permetterti di essere un po' al traino. Questo quindi è una fortuna e ringrazio il cielo, i professori universitari possono andare fino a 70 anni. E io ho pensato che nella mia ultima parte di attività lavorativa, se ho la salute, come grazie a Dio ho, vorrei dedicarmi soprattutto a due temi che considero molto importanti. Uno è un po' quello che viene chiamata l'alfabetizzazione economico-finanziaria, tema che dovrebbe interessare moltissimo le donne, perché le donne sono spesso vittime di truffe, di consigli maldati in campo economico, proprio perché le loro conoscenze in questo ambito sono inferiori. È vero. E questo è dimostrato. Non sappiamo spesso far due conti che davvero ci chiariscano sul nostro budget, per esempio, perché tradizionalmente, no, era papà che pensava a questo, giusto? Sì, e oggi questo tema è veramente importante, perché oggi la società va verso l'individualizzazione. Un tempo la migliore assicurazione per una donna, soprattutto per la sua età anziana, era trovarsi un marito, possibilmente tenerselo, e poi in virtù di una longevità maggiore godere anche la pensione di reversibilità. Oggi tutto questo è... I mariti, professoressa, non durano più. Questo è il punto. Si può forse contare ancora per un po' sulla pensione, ma non sempre si può contare su un marito. Esattamente. Allora bisogna contare su se stesse anzitutto col lavoro, e bisogna che le donne abbiano le stesse opportunità di lavoro degli uomini, che si possano costruire una pensione senza che questo gli venga concesso benevolmente, paternalisticamente da altri, e poi bisogna che abbiano anche un minimo di strumenti per agire con prudenza anche rispetto a certe sirene nel mondo finanziario, certo, per esempio. Cioè saperne di più. Certo, sapere di più. Senta, in chiusura, mi tolga una curiosità. Lei da quando ha lasciato il governo è tornata appunto a insegnare all'università, è molto in viaggio, è molto invitata. Questo tipo di attività professionale all'estero le piace molto? Le piace di più che fare il ministro? Ah, non c'è paragone. Io lo dico con grande sincerità, non ho mai avuto un minuto di rimpianto per la mia vita da ministro, perché intanto era una vita estremamente tesa, perché invece adesso mi sento, quando io vado all'estero e faccio una mia relazione e mi sento dire è un piacere ascoltarla, per me è un grandissimo piacere che mi allarga molto il cuore. E quindi dice che è meglio di una terapia. È molto difficile spiegare, molto difficile riuscire a rompere le barriere che spesso sono costruite ad arte proprio per creare divisione tra le persone. Questo è un elemento negativo che dovremmo riuscire, in particolare proprio noi donne, ad abbattere, per creare maggiore coesione e anche maggiore dialogo. Uno può sbagliare, ma tutti sbagliamo nella vita, però se ci si intende si possono anche correggere le cose. Invece usare ad arte la cattiveria per creare divisioni, questa è una cosa molto brutta. Sono state più cattive le donne o gli uomini quando lei era al governo? No, gli uomini. Gli uomini. Le donne sono state magari, sì, non, sì, ne ricordo una in particolare con una certa maglietta. Sì. Si ricorderà certo. Anche lei. E anche lì credo che questa donna sia stata, come dire, un po' usata. Però no, direi che è il cinismo degli uomini che fa più paura, è il cinismo degli uomini di potere che dovrebbe fare molta paura e mettere noi donne molto in guardia. Ci proviamo, grazie per averci messo in guardia lei intanto con questa confessione, confidenza, noi tutte di Nessuna è Perfetta. Buona domenica professoressa e buoni viaggi. Grazie e buona domenica a tutti voi. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Stiamo parlando di quello che succede con la divisione che è in atto all'idea di andare in pensione a 66 anni e 7 mesi. È tornato a Nessuna è perfetta Marco Follini, giornalista, politico, è stato, lo ricorderete, vicepresidente in un governo Berlusconi, è stato segretario dell'UDC, ma oggi è qui con noi perché mi ha colpito un suo post nel blog che tiene su Huffington Post. Scrive Marco Follini: basta passare in rassegna le biografie politiche dei grandi leader democratici del Novecento. Churchill è diventato premier la prima volta a 66 anni. Il generale de Gaulle ha gettato le fondamenta della Quinta Repubblica a 68 anni. De Gasperi è diventato presidente del Consiglio a 64 anni. Adenauer è diventato cancelliere a 73 anni. E poi ancora molte altre citazioni da Ronald Reagan, che di anni ne aveva 70 quando affrontò lo sfidante Walter Mondale, a tanti altri. Dunque, siccome in questa domenica si parla qui di pensioni, di quando ci si va, del fatto che a volte ci si va e non si vede l'ora e altre volte invece si vive con inquietudine, no, questo momento. In politica, Marco Follini, sembrerebbe che le citazioni che lei ha fatto per l'Huffington Post trovino conferma anche nel consenso che in questo momento gode un premier più che sessantenne, Paolo Gentiloni. Ma l'età della pensione di un politico la decidono i suoi elettori. Quando è il momento di ritirarsi è una decisione che spetta ai cittadini con il voto. E quindi questa discussione su quale sia l'età ideale per un leader politico è molto, appunto, discutibile, molto controversa. Io ho fatto una piccola ricerca e ho messo in fila un po' di date, che sono quelle che lei citava. Potrei aggiungere Roosevelt, che è arrivato alla Casa Bianca a 51 anni, abbassa un po' la media, ma ci dice che per guidare democrazie complesse occorre una grande esperienza, e quell'esperienza si fa col tempo. Naturalmente io ho qualche anno e quindi può darsi che sia in questo corporativo. Ci diamo l'acqua al nostro mulino, mettiamola sì, così. Sì, diciamo che può essere, ma insomma non sono personalmente interessato alla contesa. Però trovo che dopo anni e anni in cui abbiamo celebrato i fasti del rinnovamento, uno sguardo più attento al valore dell'esperienza e della consapevolezza che l'esperienza porta con sé aiuta a fare considerazioni meno banali di questo continuo elogio della novità che ricorre nel nostro discorso pubblico. Ha fatto discutere il fatto che in Danimarca, un'azienda peraltro in difficoltà, che poi ha licenziato molti suoi dipendenti, la Lego, abbia anche deciso di rimpiazzare il suo amministratore delegato, Bali Padda, a soli 61 anni e dopo soli 8 mesi, perché riteneva che avendo già lui 61 anni avrebbe avuto, come dire, un periodo davanti a sé di azione nell'azienda troppo corto. Mentre questo sembrerebbe, no, contraddire quello che diceva lei, il fatto che l'esperienza può aiutare un'azienda, così come sicuramente può essere utile in politica. La Lega hanno pensato diversamente. Ma la vita è progresso e quindi fatalmente è innovazione, è cambiamento. Io non voglio celebrare solo ed esclusivamente il valore della continuità, tantomeno quello della ripetizione. Trovo però che la guida di una democrazia, che è un procedimento infinitamente complicato, richiede una sensibilità che in genere il passare degli anni aiuta ad affinare. E vorrei sfatare un'altra leggenda di quelle che vanno per la maggiore, quella secondo cui a 20 anni si è generosi e col tempo si diventa aridi. Qualche volta è così, molte altre volte avviene il contrario. Perché magari si è portati a guardare con più distacco alle cose e quindi forse essere meno coinvolti, meno aggressivi, meno ambiziosi. Spesso da giovani si è più egoisti, si è più concentrati su di sé, si è più dominati dal demone dell'ambizione e invece col tempo si acquisisce una visione della vita inevitabilmente un po' più complessa, dove altri valori acquistano uno spazio forse maggiore. Naturalmente tutto questo è molto soggettivo, si possono citare 1000 esempi di un caso e dell'altro. Quello che trovo sbagliato è la unilateralità con cui si tende a dire dalle nostre parti che chi è più giovane incorpora una maggiore virtù, sia morale che politica. Non sempre è così. Non sempre è così. Devo dire che nell'interessante elenco, nella Follini List, che va appunto da Churchill, che è diventato premier per la prima volta a 66 anni, a De Gaulle, che ne aveva 68, a De Gasperi, che ne aveva 64, mancano, e qui a nessuno è perfetta l'assenza, si nota ancora di più, alcune importanti figure di donne politiche. Penso, ne so, a Golda Meir, che fu primo ministro in Israele, certamente non lo diventò a 20 anni, ma penso anche alla stessa Angela Merkel, che sì, diventata cancelliera in giovane età, ma oggi di anni ne ha, penso, intorno ai 60. Quindi anche per le donne bisognerebbe tener conto del fattore esperienza e saggezza, eppure in politica. Credo che oggi il leader politico che ha più visione, almeno in Europa, sia la Merkel, che a sua volta ha una certa età. Ora la cavalleria impone di non dirla, nel mio elenco ho citato solo maschietti, però il ragionamento è universale. Come lei dice, potrebbe adattarsi a molti esempi, dalla Meir alla Thatcher, alla Merkel, a Emma Bonino, a tante altre persone che hanno grandi qualità e che spero, come dire, sovvertano il gender gap che, diciamo... Vabbè, quello per ora l'hanno sovvertito solo in Germania, perché non c'è una sola prima ministra nell'Europa... A parte in Polonia, mi pare, ma nell'Europa continentale non c'è. Ci abbiamo Theresa May in Gran Bretagna, peraltro non proprio popolarissima. Beh sì, forse diciamo, non è l'esempio più calzante sì, in questo momento. Tendevo infatti a considerarla non proprio in questo momento popolarissima. Grazie a Marco Follini, grazie al nostro agente provocatore di questa domenica e buona domenica naturalmente. Grazie a voi, buona domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Stiamo parlando di quello che succede con la divisione che è in atto all'idea di andare in pensione a 66 anni e 7 mesi. C'è chi lo vede con... come una prospettiva di mantenersi attivi, che è contento di farlo e anzi pensa di lavorare anche fino a 70 anni, e chi invece si sente, soprattutto appunto le donne che hanno un carico familiare che grava sulle loro spalle probabilmente da 20 o 30 anni, ecco, non vedono l'ora di sgravarsi un po'. I nostri esperti di oggi, Linda Laura Sabbadini, statistica sociale ed editorialista della Stampa, buona domenica. Buona domenica a tutti. E Marco Mazzucchelli, Managing Director di Julius Baer. Buona domenica a Mazzucchelli che è con noi da Zurigo. Allora, in apertura, Mazzucchelli, citavo un articolo del Financial Times di qualche tempo fa che riferiva della decisione presa dalla Lego che aveva deciso appunto di mandare a casa dopo soltanto 6 mesi il suo amministratore delegato Bali Padda di 61 anni e con la ragione apparente che mancava troppo poco tempo al fatto che poi lui sarebbe andato in pensione e quindi non poteva fare un piano strategico di lungo periodo. È vero che la Lego poi ha mandato a casa anche un sacco di dipendenti perché si trova in grande difficoltà, ma è un caso bizzarro, no? Perché insomma, 61 anni appunto è l'età del nostro premier Paolo Gentiloni, attorno al quale in questo momento per esempio si coglie un grande consenso. Buongiorno, credo che questa situazione sia addirittura diversa dalle due che lei citava, perché non è il caso di qualcuno che vuole andare in pensione prima né di qualcuno che vuole lavorare più a lungo. C'è anche una terza opzione in cui si venga mandati in pensione forzatamente anche se non lo si vuole. Credo sia stato un caso abbastanza evidente di discriminazione non solo per età ma anche per nazionalità, perché era il primo caso di CEO non danese ed è durato solo 8 mesi e l'hanno cambiato molto rapidamente, per cui ci deve essere qualcosa di specifico riguardo alla Lego, che peraltro, come lei diceva, non attraversa la sua stagione migliore. Ma credo però che, ricollegandosi invece al tema che diceva prima, la possibilità di pianificare in modo più flessibile la propria vita professionale, quindi anche il momento di uscita, sia un traguardo molto importante per una società moderna, integrata e socialmente evoluta, per cui io lo vedo come un fatto molto positivo. Linda Laura Sabbadini, c'è una contraddizione tra il prolungare fino a 70 anni tra un po', no, l'età della pensione, e il cercare di aprire a forze fresche, a giovani che comunque sono sempre di meno, da un lato. Dall'altro, in certe professioni la gente è ben felice di rimanere fino a 70 anni, no? Io penso di aver incontrato anche recentemente imprenditori per nulla intenzionati a mollare e anche liberi professionisti che sono felici di lavorare anche oltre 70 anni. Per contro, quelli che invece vorrebbero andare in pensione molto prima, non so, penso agli insegnanti, ai lavoratori di aziende private, e adesso dovranno restare, nel caso delle donne per esempio, fino a 66 anni e 7 mesi. Esatto, infatti esiste questa contraddizione, perché è evidente che una cosa è una situazione in cui si lavora con una certa tranquillità, con determinati livelli di reddito e di sicurezza. Una cosa è la situazione in cui si fanno lavori più usuranti e più stressanti, non necessariamente faticosi in termini di fatica fisica, ma magari faticosi in termini di stress che si accomuna. Può sembrare strano che una maestra possa essere considerata tra questi lavori, ma lo è considerata perché in termini di stress la gestione proprio di bambini piccoli per tanti anni è una cosa che provoca logoramento, no? Quindi effettivamente Figlia di una insegnante so benissimo quanto fosse stanca mia madre. Anch'io sono figlia di un insegnante, quindi è chiaro che i bisogni sono molto diversi, dipendono sicuramente dalle diverse, diciamo così, professioni, ma esiste un problema di ricambio che è gravissimo nel nostro paese. Se noi diminuiamo le uscite o perlomeno alziamo l'età pensionabile, per cui le persone vanno più tardi in pensione, nello stesso tempo soprattutto nel pubblico, diminuiamo le entrate, magari è tema di altra trasmissione, ma rischia di portarci in un vicolo cieco. Ma Zuccalli, pensiamo a chi, come il CEO della Lego, Bali Padda, viene invitato ad andare a casa a 61 anni, non ha nessuna voglia di stare a casa e può iniziare una nuova carriera. Molti lo fanno. Io cito la giornalista del Financial Times, Lassie Callaway, che 55enne mi pare, ha lasciato, non so se temporaneamente o definitivamente, il Financial Times per dedicarsi all'insegnamento. È possibile iniziare una nuova carriera e dedicarsi con altrettanto entusiasmo, non part-time, ma full-time, a un nuovo lavoro, secondo lei? Conosco bene il caso di Lucy e ha lasciato proprio a titolo definitivo, è stata molto coraggiosa, l'ammiro molto e credo che questo è un esempio di cui tutti dobbiamo far tesoro, cioè così come si allungano le vite, cioè le aspettative di vita, anche le vite lavorative ragionevolmente si allungano, perché è probabile che uno possa pensare di lavorare, rimanere attivo anche 50 anni e oltre. Ma allora forse invece che pensare a delle carriere monolitiche bisogna pensare a più cicli lavorativi eterogenei in cui si hanno, così come si hanno forse oggi, due o più vite sentimentali nel corso della propria esistenza, magari si hanno anche due o più carriere tra loro molto diverse. Ma bisogna prepararsi in anticipo, Mazzucchelli, questo è il punto. Innanzitutto bisogna avere una flessibilità mentale totale, perché è chiaro che quando si rientra, penso al caso di Lucy Callaway, lei rientra come insegnante ma ha una posizione molto junior, quindi bisogna anche essere consapevoli del fatto che bisogna mettersi in discussione, avere una grande flessibilità mentale, ma credo anche avere un ecosistema lavorativo che sia molto più aperto, molto più dinamico, perché forse Robert De Niro nel film The Intern, lo stagista, si poteva pensare che iniziasse da zero a oltre 60 anni, però solitamente in un'azienda è abbastanza difficile, anche in un contesto lavorativo più piccolo, pensare di inserire in una posizione molto junior una persona che è molto avanti negli anni. Sarà un cambio di paradigma proprio mentale da parte di tutti noi e credo che questo aiuterebbe tantissimo anche i giovani ad avere delle possibilità di percorsi di carriera molto diversi. Dobbiamo diventare tutti molto più flessibili. Ecco, Sabadini, io comincio a pensare che l'essere flessibili sia, come dire, ormai una condizione dello spirito, perché spesso essere flessibili significa guadagnare molto meno rispetto a quanto si guadagnava prima o appunto adattarsi a un lavoro che non sempre, no, è più gratificante di quello che abbiamo lasciato. A volte sì, a volte no. Il ministro del lavoro, Poletti, però a quante si dicono appunto poco entusiasta l'idea di andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, ha prospettato la possibilità di uno sconto di 6 mesi per ciascun figlio, riconoscendo che per le donne è un lavoro doppio, triplo, perché lavorare, magari cominci a lavorare a 25 anni, e poi ti sposi, hai due figli, ti prendi poi cura anche di genitori anziani quando il corso della vita ti porta anche a questo, significa fare tre carriere spesso e non una sola. La mia domanda è: d'accordo con questa proposta di Poletti e coglie qualche discriminazione per quante, e ci sono, no, tante donne che non hanno figli o decidono di non averne? Allora, la proposta che viene fatta da Poletti si inserisce nell'ambito dell'APEX Social, non si riferisce a tutte le donne. Io ritengo che non c'è niente di peggio che l'uguaglianza sulla base della disuguaglianza. Cioè noi abbiamo fatto un segno, diciamo così, di paritario che non era paritario quando si è detto si eleva l'età pensionabile delle donne, si fa uguale a quella degli uomini. perché noi lo sappiamo che il nostro è uno dei paesi più disuguali rispetto alla condivisione del lavoro familiare e che quindi quelle donne che stanno per andare in pensione in questo momento, per esempio, sono donne che se hanno avuto due figli, tre figli, un figlio, si sono comunque fatto carico di un lavoro che non è retribuito. E questo fa sì, questo lavoro ha condizionato la loro vita, ha portato a scegliere spesso anche dei lavori che erano lavori maggiormente gestibili in termini di conciliazione. Sì, perché così si poteva fare anche cura della famiglia. Esatto, il part-time che ti permetteva di gestire meglio e di conciliare, a interrompere il lavoro all'indomani della nascita del figlio e avere più difficoltà poi a ritrovarlo, a fare tante interruzioni durante il percorso di vita. Allora, cosa succede? Che noi ci troviamo che le donne sulla base di questo percorso arrivano già alla pensione con un gender gap che è del 41%. Quindi è un gender gap che è diminuito negli anni, ma è sempre molto elevato. Certo. No, in più, oltre che arriviamo con questo, ci troviamo pure a dover andare in pensione più tardi, pur avendo avuto questo carico. Quindi il problema... Cornute e mazziate, direbbero a Napoli. Questo sconto dovrebbe essere maggiore, almeno un anno per ogni figlio, ma soprattutto dovrebbe essere per tutte le donne, non solo quelle dell'ape social. Certo. Ora ovviamente mi si dirà, ma non è sostenibile, ma io rispondo, non è più sostenibile socialmente che le donne debbano essere così penalizzate. Senta Mazzucchelli, ma nel mondo, nel vostro mondo di banchieri, di finanza, diventa sempre più frequente l'idea di inventarsi una nuova vita professionale dopo essere stati appunto magari da giovanissimi dei piccoli Wunderkind della finanza? E tra quanti lei conosce, amici, conoscenti, eccetera, che cosa fanno come secondo lavoro i banchieri così fortunati da poter lasciare senza starsi troppo a preoccupare del futuro? Dunque, le dico che è ambizione di molti, poi non tanti riescono a farlo, anche perché non è semplice poi, come dicevo prima, riuscire ad adattarsi. Spesso si passa ad un ruolo più di mentorship, che è senz'altro utile, senz'altro un ruolo più di advisory, però c'è sempre una componente finanziaria, diciamo di legame all'industria finanziaria, che fa un po' da fil rouge. Io però, se mi permette, vorrei commentare su quel tema che ha richiesto, che ha chiesto prima alla Linda Laura Sabadini, perché io, se posso dire, non sono minimamente d'accordo con questa posizione, perché se dobbiamo, diciamo, favorire e in qualche modo aiutare le mamme, aiutiamo nel momento in cui hanno i figli, non alla fine della carriera. A mio avviso questa è un'arma a doppio taglio, perché consentire, abbassare l'età pensionabile vuol dire sì dare la facoltà alla donna di ritirarsi prima, ma anche all'azienda di mandare prima in pensione la donna. E questo vuol dire che noi avremo sempre meno donne in posizione senior, perché tendenzialmente vengono, diciamo, mandate a casa prima, e soprattutto non riusciamo a far tesoro del patrimonio, dell'esperienza e della competenza. Di social skills anche, perché una mamma ha un set di skill sociali e soft che forse un papà non ha, e secondo me quando è una posizione di vertice, che di solito arriva avanti nella carriera, questo è senz'altro molto benefico per tutti, per cui a mio avviso non si deve discriminare alla fine, oltre al fatto che non ritengo giusto mi sembra un punto, questo mi sembra un punto. Allora, in chiusura, Linda Laura Sabadini, ha ragione Marco Mazzucchelli, ma come ci priviamo delle esperienze, delle competenze di persone che possono dare molto proprio nel momento in cui potrebbero raggiungere il vertice della loro azienda, o comunque avere ruoli importanti? Basta inserire il fatto che le aziende non possano fare questo, ma semplicemente lo possono fare le donne se lo vogliono. Quindi lasciare la discrezione. Credo che questa è la stessa motivazione che ha posto Boeri, che però io non condivido, nel senso lasciamo scegliere le donne. Dopodiché non credo che mettere un anno per ogni figlio fatto sia questa grande perdita, voglio dire, qui siamo in un paese dove di figli se ne fanno uno o due ormai, quindi significherebbe un anno prima, un anno in più di contributi o due anni in più di contributi, non stiamo parlando di questo grande sconvolgimento che vogliamo far credere. Io ringrazio Marco Mazzucchelli di Julius Baer da Zurigo, Linda Laura Sabbadini, editorialista della Stampa e Statistica Sociale, per averci dato il loro contributo su un tema sul quale io credo ci toccherà tornare quanto prima, perché è difficile esaurirlo solo così in pochi minuti. Buona domenica a tutti e due. Nessuna è perfetta. Ed eccoci arrivato al momento finale, l'attesissimo momento dei nostri consigli. Come ci si prepara alla pensione? Dico psicologicamente. Tre pillole della nostra coach Carla Ciani ci aiutano a capire se c'è un modo per arrivarci e arrivarci bene. Ovviamente è un tema ampissimo, come per tutti i grandi passaggi e cambiamenti della nostra vita, come l'inizio del lavoro, il matrimonio, la nascita di un figlio, il cambio di città o di paese, no? E il come viviamo questi cambiamenti riguarda ognuno di noi in un modo unico, riguarda la nostra storia individuale. Dobbiamo inoltre considerare il tipo di lavoro che abbiamo svolto, i livelli di responsabilità e anche la situazione dell'azienda nel momento in cui la lasciamo. È chiaro che è molto diverso quello che si può provare nel lasciare un'azienda che vive una fase di ripartenza effervescente dal lasciare un'azienda che agonizza o nella quale i cambiamenti o le crisi ci hanno compromesso economicamente o emotivamente. Ma abbiamo tre pillole che tutti possiamo assumere. La prima pillola, Beautiful Exit, quindi pianificare, prepararci per una bella uscita, che non significa fare un bel discorso di saluto, significa porre molta attenzione nell'evidenziare il valore del contributo che noi abbiamo dato all'azienda. Le persone ricordano molto bene l'ultima parte della relazione, quindi io direi che la parte finale dell'esperienza lavorativa è addirittura più importante di quella iniziale, quindi mettere cura nel passaggio di consegne, essere genuinamente interessati a come gli altri poi procederanno, attestare il nostro valore è davvero molto importante. Dobbiamo avere la sensazione di conclusione e non di perdita, quindi quella sorta anche di soddisfazione che abbiamo quando diciamo ok, è tutto ben fatto, no? Concludo. Se entriamo in questo così meccanismo di chiusura, saremmo pronti ad aprire una nuova fase della nostra vita. La seconda pillola è riguardare un po' la nostra identità, quello che io sono, quello che io faccio, quello che ho fatto e quello che mi piacerebbe fare. È chiaro che quello che noi abbiamo fatto per tanto tempo nella nostra esperienza lavorativa influenza il nostro modo di essere, come noi siamo, e dobbiamo quindi riguardare bene come i contenuti dell'esperienza lavorativa hanno arricchito la nostra personalità, la nostra identità, oppure le cose che siamo certi che non vorremmo più fare, per utilizzare questo nostro patrimonio e metterlo a disposizione prima di tutto di noi stesse con altre esperienze magari, o a disposizione degli altri. La terza pillola deve attivare il ricordo che il tempo è una ricchezza per tutti e per tutti è una risorsa molto scarsa. Quindi non dobbiamo lasciarci intimorire dall'averne finalmente tanto per noi. Non dobbiamo lasciarci intimorire di fronte a questo tesoretto, ma dobbiamo sfruttare al meglio questa ricchezza. E per esempio non dobbiamo modificare drasticamente i nostri orari, dobbiamo invece mantenerli se possibile mettendo nei vari spazi altri contenuti, per esempio l'informazione, l'esercizio fisico, la cultura, la gestione dell'economia familiare, l'ascolto di persone che magari abbiamo trascurato, le competenze che vogliamo rafforzare. E banalmente ricordiamoci che davvero il tempo è danaro, e avendo più tempo riusciamo certamente a fare acquisti un pochino più ponderati, organizzare in maniera più precisa un viaggio, darci del tempo per scegliere le cose giuste per noi, e questa cosa sicuramente andrà a beneficio della nostra vita e potrebbe anche essere qualcosa che noi possiamo gestire per gli altri. Buona domenica Carla Ciani, buona domenica a voi che ci avete seguito. Scrivete a nessunaeperfetta@radio24.it, seguiteci su Twitter e fateci sapere se la vostra personale preparazione alla pensione ha già tenuto conto delle tre pillole della nostra coach. Grazie Maria, grazie a tutti e buona domenica.